sicuramente in Italia ci sono un sacco di persone che sono nel posto giusto e che se lo sono guadagnato, però sicuramente ci sono anche molte persone che probabilmente forse hanno preso il mio posto di lavoro. Grazie per la sincerità. Alla fine fai domanda alla Commissione Europea, al secondo tentativo ti prendono e poi si dipana il tuo percorso professionale a Bruxelles, prima come stagista presso un'associazione di Information and Communication Technology, dove sarai poi assunta, e poi in Panasonic, dove ora ti occupi di Government Affairs, insomma, possiamo dire più tradurre più prosaicamente lobbying. E lì qualcuno ti calcolava e molto più di striscio. Spiegaci dunque la differenza di approccio verso i profili qualificati come il tuo in Italia e a Bruxelles. La differenza è che a Bruxelles ho fatto domanda di lavoro rispondendo a un annuncio, per cui ci sono queste possibilità, e sono stata presa perché hanno saputo valorizzare il mio background accademico internazionale, sicuramente le esperienze che ho fatto e poi anche le conoscenze che ho acquisito, per cui viene messo veramente in evidenza quello che sei e quello che sai. Cosa significa fare la lobbista a Bruxelles? Il lobbista è una figura professionale che rappresenta, nel mio caso a livello di istituzioni europee, gli interessi di una categoria di persone, di un'industria, di un'azienda oppure anche di un'organizzazione non governativa. Il lobbista è una persona che aiuta i politici e i funzionari europei nel capire le diverse posizioni delle imprese su determinati dossier. Domanda di rito prima di cedere la linea al traffico. Sandra, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? L'Italia dall'estero la vedo sicuramente un paese molto statico, dove ormai non si ha più la forza di indignarsi per nulla, tutto passa come normale, la normalità è diventata forse la normalità. È un paese che secondo me deve smettere di parlare dei problemi e cominciare a fare qualcosa per risolvere questi problemi. E da oggi fino alla fine dell'estate apriamo il secondo sondaggio dello spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanciamo settimanalmente. Questo sondaggio è interamente rivolto ai nostri giovani ascoltatori che ancora vivono in Italia. La domanda è: avete colto negli ultimi mesi segnali incoraggianti per restare e provarci nel bel paese? Vale ancora la pena scommettere sull'Italia oppure è meglio comunque emigrare? Scriveteci la vostra preferenza, se pensate di restare o andarvene, accompagnata da nome, età, professione, città di residenza, più eventuali commenti a giovanitalenti@radio24.it. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. Oggi puntata interamente dedicata ai lavori disponibili per i nostri giovani espatriati qualificati a Bruxelles. Dopo aver ascoltato nella prima parte del programma la storia della lobbista Sandra Alverà, è giunto ora il momento, come vi avevamo promesso, di portarvi nel cuore delle istituzioni comunitarie. Vi racconteremo la vicenda di Carmela Asero, 34enne funzionaria alla Commissione, che abbiamo incontrato a gennaio. Nome: Carmela. Cognome: Asero. Età: 34. Città di origine: Catania. Studi: laurea in economia, master in studi diplomatici e master in business. Anno in cui hai lasciato l'Italia: la prima volta per lavoro nel 2002. Per andare dove? Atlanta, negli Stati Uniti. Perché? Dare un'occhiata ai trend futuri. Quale lavoro svolge attualmente? Scientific Project Officer. Dove? Alla Commissione Europea a Bruxelles. Tornerai? Non credo, soprattutto nel contesto attuale. E come dicevamo, oggi Giovani Talenti torna a Bruxelles, a differenza delle puntate precedenti, però questa settimana vi portiamo nel cuore delle istituzioni europee, un approdo lavorativo sempre più ambito dai giovani italiani, in particolare da quelli che possono vantare la proiezione più internazionale e la mente più aperta. Prima di cominciare però, una premessa di carattere legale: Carmela viene intervistata come professionista che ha sviluppato la sua carriera all'estero non in quanto impiegata della Commissione. Le sue dichiarazioni non sono riferibili in alcun modo all'istituzione per cui lavora. Questa premessa necessaria, la tua storia però, e andiamo sulla storia. Carmela inizia una mattina dei primi anni 90 in una piccola classe di liceo della provincia catanese. Un professore di matematica chiede ai suoi studenti cosa avrebbero voluto fare da grandi. Nel mezzo di risposte scontate ne emerge una che tanto scontata non era. Qual era, Carmela? Era il 92, seguivo con attenzione notizie sul trattato di Maastricht, sull'integrazione europea, ed espressi il desiderio un giorno di poter lavorare a questo progetto proprio in una delle istituzioni europee. Nel mezzo della sorpresa della tua classe, a distanza di 15 anni però si scoprirà che il tuo non era un delirio. In una istituzione internazionale alla fine ci sei approdata. Ma partiamo dall'inizio. Ti iscrivi alla facoltà di economia dell'Università di Catania dopo un negoziato con i tuoi genitori. Perché? Nel mio caso era una questione familiare. Mio padre lavora come ingegnere libero professionista e mio fratello ha seguito le sue orme. E quindi era un percorso che rassicurava i miei. Io però avevo due inclinazioni prevalenti. Una politico-sociale internazionale e una tecnico-scientifica, che però nel tempo si sono ricongiunte. Economia quindi è stata una scelta in questo senso. E che giudizio dai oggi di quella esperienza universitaria nel complesso? Ho avuto una solida formazione teorica, però era un ambiente piuttosto chiuso verso l'esterno e il tessuto economico circostante era abbastanza arido. Nel corso dell'esperienza universitaria trascorri un periodo di Erasmus a Liegi che incentiva la tua già forte vocazione internazionale, ma c'è un problema: la tua laurea arriva poco prima dell'11 settembre, una data che segnerà l'inizio di un periodo di crisi economica. In quei mesi comincia il tuo personale pellegrinaggio di colloqui in giro per l'Italia. Premettiamo subito che parlavi due lingue, avevi un'ottima dimestichezza con le tecnologie, ma le risposte che ottieni all'epoca di che tenore erano? Principalmente ho avuto delle non risposte ai CV inviati soprattutto al nord. Feci un paio di selezioni nazionali presso banche, una delle quali però bloccò le assunzioni, l'altra credo si orientò su profili più tradizionali. In Sicilia feci dei colloqui, ma si pretendeva che lavorassi sempre senza un inquadramento chiaro, senza una retribuzione chiara. Insomma, e facevano sempre domande di ambito personale. In le condizioni classiche, no, di lavoro per i giovani in Italia, no? Dovremmo andarne veramente fieri. Che idea ti sei fatta del tipo di selezione delle risorse umane nel bel paese? È ben strutturato oppure improvvisato? Le offerte sono pubblicizzate e accessibili oppure, come sostiene Union Camere, nascoste? Spesso le offerte, specialmente per lavori di tipo qualificato, sono nascoste. Si agisce nell'ambito delle conoscenze circostanti, quindi raramente si arriva a una pubblicazione di professioni qualificate. Una prima svolta nella tua vita arriva nel gennaio del 2002, a quasi un anno dalla laurea. Ti presenti a una job fair a Catania e lì quale opportunità ti si presenta? Ero con un'amica e collega di studi ed entrambe avevamo ottimo inglese, io anche il francese. Sostammo nello stand di un'agenzia che era affiliata a un ente di scambi internazionali fra Europa e Stati Uniti. Trovammo opportunità di stage ad Atlanta e affrontammo insieme quell'esperienza. Nota mia, attualmente anche la mia amica è espatriata in Gran Bretagna. Casualmente, che bilancio dai di quell'esperienza ad Atlanta? Devo dire che è stata un'ottima esperienza. Ho visto un po' il futuro che lì era già in corso, già il wireless era molto esteso nelle tecnologie, si andava avanti. Mi resi subito conto che contano più le idee e le competenze rispetto all'età. Gli Stati Uniti sono un paese che hanno espresso anche presidenti giovani. Times quest'anno ha nominato un 26enne uomo dell'anno. Voglio sottolineare queste parole, sono importanti. Carmela, al tuo rientro in Sicilia il tuo profilo è considerato però come strano. Facci l'esempio di un colloquio tipo, per favore. Beh, le impiegate delle agenzie interinali mi chiedevano cosa avessi fatto come esperienza, disse le cose che fece ad Atlanta e nell'ambito web. Poi erano stupite, mi chiedevano: lei è laureata in economia? Sì, ma non è il diploma in ragioneria? No, il liceo scientifico. Perché non ha fatto il tirocinio per commercialista? No, non sono interessata a fare la commercialista. Mi dicevano: no, non abbiamo niente, se almeno avesse il diploma di ragioneria. E certo, perché in Italia conta più un diploma che una laurea. Siamo in questo veramente un unicum, direi, in Europa. Tu a quel punto ti iscrivi a due master, il primo in studi diplomatici, il secondo con una borsa di studio in e-business, e qui ti si presenta l'opportunità per uno stage a Parigi. In cosa esattamente? Andai a lavorare presso un grosso operatore satellitare a Parigi, nel team che si era costituito per un progetto finanziato dalla Commissione Europea per servizi broadband molto avanzati. E da Parigi, concluso lo stage, ti sposti a Bruxelles per un altro stage alla Commissione Europea, a cui seguiranno 9 mesi presso la multinazionale Sony. Colpisce l'improvvisa mobilità che acquisisce il tuo curriculum non appena varchi le Alpi. Non fu difficile trovare lavoro, era più difficoltoso trovare un lavoro in linea con le proprie competenze, perché i giovani europei in genere a parità di età hanno una solida esperienza perché finiscono l'università molto presto rispetto agli italiani. Però trovai facilmente un lavoro, diciamo, di transito alla Sony con uno stipendio regolare. E alla fine arriva la grande occasione, superi 2 concorsi per agenti contrattuali presso le istituzioni europee, inizialmente lavori come Communication Officer al Comitato delle Regioni, poi dal novembre del 2008 riapprodi alla Commissione Europea come Project Officer. Molto in breve, di cosa ti occupi adesso? Mi occupo di grossi progetti finanziati dal 7° programma quadro per le grandi infrastrutture ICT dedicate alla ricerca scientifica, quindi la velocissima rete europea Giant, griglia di calcolo, supercomputer, eccetera. Insomma, un incarico di responsabilità a 34 anni. Cosa vedi quando torni in Italia? È vero che i tuoi amici ti consigliano di restare in Europa? Sì, mi consigliano di restare in Europa perché il sistema è ingessato, molti miei amici lavorano precariamente, spesso devi chiedere come favore al politico di turno l'accesso a posizioni che all'estero ottieni su base competitiva e in considerazione delle competenze. È democrazia questa? Lascio la domanda in sospeso. Tu citi nell'ordine salario, servizi e opportunità di crescita come fattori di superiorità del centro-nord Europa rispetto all'Italia. A Bruxelles c'è, diciamo, un costo della vita molto abbordabile rispetto alle altre capitali europee, i salari vanno dal 50% al doppio che in Italia per le stesse funzioni, eppure in Belgio l'imposizione fiscale è elevata. A Bruxelles c'è una tassa comunale modica per un servizio efficiente di raccolta rifiuti, ottimi servizi per la famiglia e infanzia, abbiamo metro, bus, tram, servizi di car sharing, stalli con le bici pubbliche. Domanda di rito, Carmela, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va, cosa cambieresti e come? È un sistema abbastanza chiuso su se stesso, autoreferenziali, con delle corporazioni che innalzano barriere all'ingresso e avanzamenti che sono legati spesso alla fedeltà politica e legami familiari, quindi occorre cambiare atteggiamento verso la competizione, il vecchio motto, diciamo, del vin che migliori in un contesto con delle regole condivise e rispettate per avere maggiori opportunità per una larga fetta, diciamo, di persone, quelle più dinamiche e ambiziose. Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it, le pubblicheremo sul web. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti Estate. Aspetto allora i vostri contributi online e a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.